vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 24 marzo, il sole in regione sorto alle 6.02 tramonterà alle 18.26. Domani ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. I titoli. Si chiama Essiccatoi FVG, la nuova aggregazione cooperativa della cerealicoltura regionale. Contorto Serpeggiar d'Ulivi è il titolo del corsivo di Licio Damiani che riproponiamo oggi. Parlando di tamarindo, il riferimento più facile è alla bevanda, ma non tutti sanno che è un albero e una leguminosa, con proprietà anche medicamentali. Per la rubrica del vino, oggi si analizza il ruolo degli enzimi macerativi in cantina. Pollo fritto in panà, una costante dei pranzi pasquali sull'erba, ma dietro c'è ben altra storia per questo piatto. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Confcooperative del Friuli Venezia Giulia ha guidato la formazione di Essiccatoi FVG, una nuova realtà che raggruppa quello che una volta era considerato il punto finale di tutta la cerealicoltura del Friuli Venezia Giulia, un primo passo verso una nuova filiera. Daniele Castagnevic, presidente di Confcooperative del Friuli Venezia Giulia, ci racconta perché e come si è arrivati a questa nuova realtà che potrà lavorare, che potrà in qualche maniera raccogliere almeno il 50% di tutti i cereali e le oleaginose del nostro territorio. Intanto, per cominciare, presentiamo cosa sarà Essiccatoi FVG. Essiccatoi FVG è una fusione fra quattro cooperative per incorporazione: Essiccatoi Bozzoli di Palmanova, che è la cooperativa storica più vecchia del 1920, incorporerà in se stesso Granaio Friulano, che è il frutto della fusione fra Ceralicola Vieris e Morenica Cereali avvenuta 2 anni fa. In più ci sarà dentro Essiccatoio Intercomunale Torricella di San Vito Tagliamento e Essiccatoio Torre Natisoni di Remanzacco. Questa nuova entità che nasce con una potenzialità enorme, secondo me, perché ha oltre 2.000 soci, parliamo di oltre 2 milioni di capacità di stoccaggio, oltre 100.000 quintali al giorno di capacità di essiccazione, quindi siamo in grado di dare risposta al territorio, sia nel momento della raccolta, ma l'obiettivo, sicuramente non nell'immediato, ma l'obiettivo con cui ci siamo messi insieme è razionalizzare sia la raccolta, ma soprattutto provare a dare risposte diverse, quindi trasformazione, filiere, che possono aiutare a migliorare il reddito delle nostre aziende, perché la battuta che faccio sempre è: non abbiamo bisogno di arricchire la cooperativa a scapito dei soci, perché il giorno dopo chiudiamo anche la cooperativa. Però bisogna chiudere questo processo dentro il Friuli Venezia Giulia. Il nostro obiettivo è proprio portare alcune trasformazioni possibilmente all'interno della regione. È chiaro che su queste giocheranno dinamiche di mercato e commerciali con cui comunque la nuova struttura dovrà fare i conti. In parole povere, arrivare alla produzione dei mangimi in loco. Dei mangimi in loco, ma anche di alcuni trasformati di mais piuttosto che di altri cereali, perché possono andare direttamente alla grande distribuzione. Ecco, la grande distribuzione come si pone nei confronti di questa nuova realtà? Sicuramente noi non possiamo in questo momento giudicare come si pone la grande distribuzione, perché non abbiamo ancora contatti con la grande distribuzione. Quello che possiamo dire è che l'industria di trasformazione, nel momento in cui ha saputo della nostra nascita, ci ha cercato. Non l'abbiamo cercati noi, perché noi ancora ufficialmente non siamo nati, dopo l'assemblea di fusione nasceremo dal 1 giugno, ma l'industria ci ha già cercato. Questo secondo me è un segnale di attenzione che ci fa ben sperare per il futuro. In un panorama, quello dei cereali in Friuli Venezia Giulia, che qualche sofferenza ce l'ha, basta pensare al mais che da 100.000 ettari di inizio anni 2000 si è dimezzato un po'. Più che dimezzato, perché se pensiamo ai dati ERSA riguardanti la campagna mais del 2023 si parla di poco più di 35.000 ettari. Di questi 35.000 ettari facciamo conto che circa 15.000 vanno agli impianti di biogas, quindi è chiaro quello che resta. Se poi facciamo conto che nel 2022 abbiamo avuto la siccità, nel 2023 abbiamo avuto un enorme areale, quello più vocato a mais, colpito dal fortunale del 24 luglio con danni fino al 100% sul raccolto. Quindi capiamo la difficoltà di avere granaglia in mano e nonostante la poca produzione, i mercati in questo momento non ci stanno dando ragione. Orzo, frumento, soia dunque. Quest'anno, anche visto l'andamento climatico che sta impedendo le lavorazioni del terreno, per fortuna piove, però questo rallenterà sicuramente le operazioni di semina di mais, per cui il rischio che corriamo anche per questo motivo è che ci sia un aumento delle superfici a soia. Le superfici a frumento sono calate perché pioveva a novembre e la gente ha fatto fatica a seminare. L'orzo ha recuperato qualcosa con le semine primaverili. Su questo abbiamo una filiera di orzo da birra in cui ci sono 5.500 ettari destinati a quella filiera e quella potrebbe essere una delle prime filiere che possiamo portare probabilmente fino in fondo sulla trasformazione dando valore aggiunto. Alcune cose le stiamo già facendo come granaio friulano, sicuramente continueremo a farle come essiccatoio e FVG e questo insomma è un inizio. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, raccolti nel volume Vita nei campi, storia, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo Contorto serpeggiar d'ulivi, in onda il 13 marzo del 1994. Sul Carso e dalle parti di Muggia freme il grigio argento degli ultimi uliveti che si prolungano sulle terre rosse dell'Istria. Nel quadro nazionale la produzione nella nostra regione è minima e al momento concentrata quasi esclusivamente in provincia di Trieste. Eppure una volta anche il Friuli era bello d'uliveti. Nell'Ottocento la coltivazione cominciò ad essere abbandonata. Il colpo definitivo venne dalla storica gelata del 1929. Oggi permangono alcune isole monumento. A Rocca Bernarda, sul dosso che conduce alla Villa Castello, il serpeggiare contorto degli ulivi immerge il visitatore in una dolce isola di arcane memorie, cui fanno da controcanto i frammenti di terme romane disseminate sul prato. A maggio, ai piedi delle piante, fioriscono, come in Toscana intorno a Fiesole, le rose. A Savorgnano del Torre, su una collina, si infittiscono le scaglie lunari di un gruppo di ulivi raccolti come giganti superstiti. E sui declivi, intorno all'abbazia di Rosazzo, si estende la sinfonia argentata degli oliveti di recente impianto. Impianti sperimentali vengono curati dall'ERSA in aree a solatio delle province di Udine e Pordenone. Ammorbidiscono, fanno antico il paesaggio, i tronchi rugosi trattengono echi di storie remote, il frastagliato scintillio delle minute foglie lanceolate sull'azzurro del cielo evoca il poetico tremolar della marina. L'ulivo, il mito radicato nella terra, molti altri sono i miti fissatisi nella vegetazione. Le violette che in questi giorni occhieggiano sulle prode fiorirono, secondo la leggenda greca, dal sangue di Attis, bellissimo giovane amato di casta passione dalla dea Cibele. Ella decise di legarlo a sé per sempre, ponendo come condizione che conservasse la propria verginità. Attis, tuttavia, narra Ovidio nel poema Le Metamorfosi, non poté resistere all'amore della ninfa Sagariti. Cibele, irritata, abbatté un albero alla cui vita era legata quella della ninfa e fece impazzire Attis, che si evirò e morì per la mutilazione. Fiori spuntarono sulla sua tomba. Proprio a metà marzo, nei giorni che segnano il passaggio del sole dallo zodiaco meridionale a quello settentrionale, gli antichi ne rievocavano la passione. Iniziava un periodo di penitenza che si concludeva alla fine del mese con la festa della resurrezione del nume. Rito di un vecchio testamento pagano, annotò la scrittrice Simone Weil, che sarebbe stato purificato dalla rivelazione cristiana. Il tamarindo non è solo la più famosa bevanda, è anche un albero e soprattutto una leguminosa con proprietà curative, come ci dice oggi Cristina Micheloni. Dopo il carrubo, un altro albero della fantastica famiglia delle leguminose, il tamarindo. Immagino non solo che pochi sappiano che è una leguminosa, ma probabilmente nemmeno che è un albero. E invece è un albero imponente, lento nella crescita ma molto longevo, il cui nome deriva dall'arabo e significa più o meno dattero dell'India. Infatti, benché sia originario dell'Africa orientale, ha trovato il suo ambiente ideale in India e si è poi diffuso su tutta l'area subtropicale. È tendenzialmente sempreverde, ma se incontra dei periodi siccitosi prolungati, molla le foglie e le riprende quando un po' d'acqua si rende disponibile. Le foglie sono simili a quelle della mimosa, pure lei è una leguminosa, ve lo sareste mai aspettato? E proprio come la mimosa si chiudono di notte. Il frutto è un baccello grosso, lungo dai 10 ai 15 centimetri, dalla ricca e succosa polpa che contiene dei semi duri e lucidi. Ma è la polpa del baccello il motivo di interesse sia in cucina che per uso medicamentale. È una pianta tropicale, quindi regge bene le alte temperature, la luce diretta, anche in fatto di terreni è assai tollerante, pure verso i suoli salini. Non richiede fertilizzazioni né irrigazioni, soprattutto nei nostri contesti. Le uniche cose che teme sono il ristagno idrico o situazioni di prolungata umidità ed il freddo sempre per lunghi periodi, mentre invece pochi giorni non sono un problema. Se volete provare a coltivarlo potete cercare in vivaio o in rete la pianta già pronta oppure partire del seme lasciandolo in ammollo per una buona giornata per poi piantarlo prima in vaso e poi dopo un paio d'anni in piena terra. Sappiate però che ben che vada assaggerete i primi baccelli dopo 8 anni, ma poi che ce ne facciamo del tamarindo? In India la polpa del baccello diventa pasta di tamarindo con cui si preparano salse, curry o sciroppi. In America Latina è più utilizzato per le bevande rinfrescanti. Da noi qualcuno conoscerà lo sciroppo, no? Con cui si prepara un'ottima bevanda scura. Con limone, ghiaccio e un po' di frizzantezza, assai meglio dell'usuale modo di bere scuro. Altri ricorderanno un lassativo a base di tamarindo. In realtà le proprietà medicamentose più interessanti sono legate all'azione batteriostatica e antimicotica. E le fibre aiutano a proteggere l'intestino e a ridurre il colesterolo. Magari non è facile da coltivare qui da noi, però se decidete di bere una bevanda al tamarindo, sappiate che state sostenendo la fertilità e la salute del suolo. Il ruolo degli enzimi nella macerazione del pigiato. Questo è l'argomento di oggi nella rubrica del vino con il professor Roberto Zironi. Nella cellula vegetale, la parete è la struttura che ha funzione di dare consistenza e protezione ai diversi tessuti e per estrarre la componente liquida in essa contenuta è necessario rompere non solo fisicamente, ma anche con l'ausilio di una tecnologia di tipo biologico come gli enzimi, le pectine e le altre macromolecole che formano la parete stessa. Gli enzimi sono molecole proteiche che svolgono una funzione di catalizzatori nelle reazioni biochimiche. E nel settore enologico l'impiego di preparati enzimatici è oggi diventato pratica corrente. Nelle uve rosse, l'utilizzazione di preparati enzimatici ha lo scopo di estrarre non soltanto le sostanze coloranti rosse, gli antociani, ma anche quello di rompere le strutture della parete della buccia ed estrarre le sostanze polifenoliche di maggiore dimensione. Gli antociani e i tannini, con maggiori gradi di polimerizzazione, sono contenuti nelle cellule della buccia, allo stato libero nel succo vacuolare, ma nelle membrane vacuolari e nelle pareti delle cellule della buccia, i tannini sono anche presenti in forma legata con altre macromolecole, polisaccaridi e proteine. Le attività pectolitiche del preparato enzimatico provocano nella membrana vacuolare e nella parete cellulare l'apertura di varchi di piccole dimensioni attraverso i quali i tannini e gli antociani presenti in forma libera nei vacuoli vengono estratti rapidamente. Le attività secondarie cellulasiche ed emicellulasiche provocano varchi di misura maggiore che liberano i tannini legati ai polisaccaridi e infine le attività proteasiche permettono l'estrazione dei tannini legati alle proteine della parete. L'intensità dell'azione dell'enzima può essere variata in funzione della qualità delle uve e del risultato ricercato. Più la dose di enzima è elevata, più l'enzima va in profondità nella pellicola e dunque più l'estrazione è intensa. Nella gestione della macerazione la scelta del binomio dose di enzima-tempo di macerazione offre un'opzione supplementare. Per ottenere un vino morbido allo stesso tempo equilibrato è necessario estrarre con la macerazione i tannini della buccia senza incrementare quelli del vinacciolo. La dose di enzima influenza quindi la concentrazione nel vino dei tannini della buccia. Il tempo di macerazione invece è la quantità dei tannini estratti dai vinaccioli. Le macerazioni possono essere quindi più corte ma più intense. I vini ottenuti sono più concentrati senza essere aggressivi. Pertanto l'uso di un complesso enzimatico nella macerazione permette di ottenere nella produzione dei vini la diffusione rapida nel succo del potenziale polifenolico dolce, grasso, rotondo, cioè di quella che viene anche definita la struttura tannica nobile. Pollo fritto in panà, una costante dei pranzi al sacco di Pasquetta, come ci dice Roberto Zottar, che analizza anche storia e geografia di questa pietanza. Questa tradizionalmente sarà una settimana intensa in cucina, tra pinze, fugazzi, presnitz, cubane, pistun e titole. Ci saranno poi i preparativi per la merenda ed il pranzo di Pasqua, il primo vero pasto completo dopo i 40 giorni di restrizioni quaresimali. Oggi vi voglio parlare però della scampagnata del lunedì di Pasquetta, il bel momento conviviale all'aria aperta per godere dei primi tepori primaverili. Tra le tante pietanze per questa merenda al sacco, molte famiglie preparano cotolette e pollo fritto in panà e li degustano freddi. Vi confesso che amo molto il pollo impanato, ma per me va mangiato caldo e croccante, rigorosamente appena fritto. Ricordo ancora quando a Moncorone in Slovenia, in un'osteria famosa per i gamberi di fiume e il pollo fritto, eravamo già a tavola, ma alcuni amici commensali non erano ancora arrivati. Ho detto allora al cameriere, per guadagnare tempo, di mettere pure a friggere il pollo intanto che gli amici arrivavano e mi sono sentito rispondere «No, amici può aspettar, pollo no». Piatto tipico delle trattorie del Carso, il pollo fritto trova una prima attestazione già nel ricettario romano di Apicio, mentre la sua esaltazione ai giorni nostri è con il fried chicken dei fast food americani del Kentucky. Per cucinarlo a casa alla perfezione ci vogliono però alcuni accorgimenti. Tagliate il pollo a pezzi con un coltello affilato, incidete le parti cercando di arrivare fino all'osso. Un segreto perché il pollo riesca bene è di farlo marinare nel succo di limone per un'ora o in alternativa di farlo bollire nel latte per un quarto d'ora, ciò per eliminare ogni residuo di sangue vicino all'osso. Asciugate quindi i pezzi di pollo e passateli prima nella farina, poi nell'uovo sbattuto e infine nel pan grattato, premendo con le mani in modo che aderisca bene alla carne. Pellegrino Ortusi, a proposito di pollo fritto, scriveva: «Nelle fritture di grasso io preferisco il lardo perché mi sembra di un gusto più grato e più saporito dell'olio. Voi usate strutto o olio di arachidi ed una pentola a bordi alti e friggete a calore moderato per circa 10 minuti fino a dorare i pezzi in superficie. Se la temperatura dell'olio è troppo elevata, la parte esterna si bruciacchia mentre l'interno resta crudo. Verificate quindi che nelle incisioni fatte inizialmente non ci siano residui di sangue, indice che il pollo non è pronto. Togliete il pollo dalla padella, tamponatelo con carta assorbente, salate e servitelo caldo, accompagnato da fette di limone e, volendo, salsa tartara. Buon appetito!» E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole da cambio di commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,10 e 19,30 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,50 e 20 euro, l'ordo peso specifico 62,65 tra 18,30 e 18,80 e la soia tra 43,40 e 43,90. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 6,70 euro il quintale e la soia di 6,30. Quotazioni stazionarie nel comparto di bovini da macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,10 e 3,60 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,40 e 3,10. Prezzi invariati pure nel settore vitale da ristallo, con i blubelga maschi che vengono quotati tra 6,20 e 6,80 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 5 euro, i frisoni tra 2 e 2,20 e i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Operazioni in salita nel comparto dei suini, con dinamiche rivalutative per i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,71 euro il chilo IVA esclusa. Stabili invece i grassi da macello, che si quotano a 2,05 il chilo. Nel comparto dei prodotti caseari, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine ha recentemente determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo fra 48,50 e 50,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA, e ha determinato il montaggio di 90 giorni tra 8,60 e 8,80 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 9,80 e 9,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30, con marchio di qualità tra 11,10 e 11,30. Nell'ambito dei foraggi, per scarsa richiesta di prodotti, i prezzi sono stagnanti. L'erba medica di prima qualità viene quotata tra 11 e 12 euro al quintale, IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 6 e 7 euro e la paglia di cereali pressata si quota tra 6,50 e 8,50 euro al quintale. Stabilità per il prosciutto di San Daniele, lo stagionato di 16 mesi, viene pagato con osso fra 13,50 e 17,50 euro il chilo, IVA esclusa, quello di Sossato fra 18 e 21,50. Dal territorio di Tolmezzo rileviamo i prezzi della legna da ardere, che vengono quotati oggi a 9-10 euro il quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è diminuito di circa 1,50 euro. Infine, nel comparto degli avicunicoli migliora il quadro congiunturale e i poli a terra vengono quotati da 1,08 a 1,12 euro il chilo, IVA esclusa, le anatre da 3,20 a 3,30, i tacchini maschi da 1,58 a 1,60, le faraone da 3,32 a 3,40, i conigli oltre 2,5 kg da 2,34 a 2,40, le uova oltre i 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono a 21 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Anche nelle ultime due settimane il mese di marzo è continuato con le caratteristiche di variabilità con cui era cominciato. Il 10 marzo abbiamo avuto un fronte piuttosto intenso che ha portato piogge intense sulle Prealpi dell'ordine di 100 mm e vento forte in quota, ben inferiori alle piogge sulla costa e sulla bassa pianura. In seguito abbiamo avuto variabilità per alcuni giorni senza elementi particolarmente significativi. Le temperature massime si erano attestate sui 17-18 gradi in pianura e sui 15-16 sulla costa. Le minime di solito non sono scese sotto i 5 gradi in pianura, mentre sui monti localmente siamo andati sotto zero, specie nel Tarvisiano. Anche a metà mese, con correnti tra ovest e nord-ovest e qualche debole fronte, è continuata la variabilità. Non ci sono stati elementi particolarmente rilevanti e il regime è quello di una primavera inoltrata, con neve presente in modo significativo solo oltre i 1500 metri circa. Le temperature in montagna, il 15, sono arrivate anche a superare i 15 gradi a 1000 metri di quota. Il giorno 18 un debole fronte atlantico ha portato qualche debole pioggia. In seguito si sono avute prevalentemente correnti anticicloniche da nord-ovest, con tempo in prevalenza stabile e cielo da poco nuvoloso variabile. Le temperature sono state leggermente sopra la norma. Un cambiamento più significativo si è avuto ieri per l'arrivo di un fronte freddo atlantico da ovest-nord-ovest che ha determinato piogge e temporali, nonché il ritorno della neve nel Tarvisiano. Oggi potremo avere un po' di instabilità pomeridiana, mentre domani mattina farà piuttosto freddo per la stagione, con gelate diffuse in montagna e forse localmente anche in pianura. Lunedì dunque sarà una bella giornata di sole, mentre tra martedì e mercoledì avremo un fronte mediterraneo che porterà altre piogge, da deboli martedì pomeriggio a intense mercoledì pomeriggio e mercoledì sera. La neve salirà di quota fino a 1800 metri circa per l'arrivo di venti umidi e miti dell'Adriatico. Nella notte tra martedì e mercoledì sarà possibile forse anche qualche mareggiata tra Lignano e Grado. In seguito rimarranno correnti sud-occidentali che porteranno ancora aria umida e instabile. Il cielo sarà variabile, con più sole sulla costa e con qualche rovescio pomeridiano. Le temperature massime staranno tra 17 e 21 gradi. Domenica prossima potrebbe giungere un altro fronte, ma, visto l'anticipo, come sempre vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Buona domenica! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se San Ruperto non l'ha lui, non varrà neanche il mes di lui. Ovvero, se il giorno di San Ruperto, il 27 marzo, non ci saranno nuvole, non ce ne saranno neanche il mese di luglio. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.